Ciò che Dio ha stabilito. Leggo in Esdra capitolo 1 versetti 1 a 4 nella Bibbia. Nel primo anno di Ciro, re di Persia, affinché si adempisse la parola del Signore pronunziata per bocca di Geremia, il Signore destò lo spirito di Ciro, re di Persia, il quale a voce e per iscritto fece proclamare per tutto il suo regno questo editto. Così dice Ciro, re di Persia, il Signore Dio dei cieli mi ha dato tutti i regni della terra, ed egli mi ha comandato di costruirgli una casa a Gerusalemme, che si trova in Giuda. Chiunque tra voi e del suo popolo, il suo Dio sia con lui. Salga a Gerusalemme, che si trova in Giuda, e costruisca la casa del Signore, Dio di Israele, del Dio che è a Gerusalemme. Tutti quelli che rimangono ancora del popolo del Signore, dovunque risiedano, siano assistiti dalla gente del posto, con argento, oro, doni in natura, bestiame e inoltre con offerte volontarie per la casa del Dio che è a Gerusalemme. Leggo ancora in Isaia 44:28. Io dico di Ciro, egli è il mio pastore, egli adempirà tutta la mia volontà, dicendo a Gerusalemme sarai ricostruita e al Tempio le tue fondamenta saranno gettate. Leggo ancora in Isaia 45:13. Io ho suscitato Ciro nella giustizia e appianerò tutte le sue vie. Egli ricostruirà la mia città e rimanderà liberi i miei esuli senza prezzo di riscatto e senza doni, dice il Signore degli eserciti. Seguendo gli avvenimenti di politica internazionale, ci si accorge di quanto gli equilibri siano molto precari. In particolare, Israele è sempre al centro di grandi tensioni internazionali. Molti si chiedono perché Dio permetta tutte queste guerre senza intervenire. Ma siamo sicuri che Dio non intervenga? Siamo proprio sicuri che Dio non stia guidando la storia? Ai tempi di Ciro, re di Persia, gli israeliti si trovavano in esilio da circa 70 anni, a partire dalla prima deportazione a cui partecipò anche Daniele nel 605 a.C. circa. La Bibbia ci dice che Dio aveva permesso a Nabucodonosor di essere uno strumento per giudicare Giuda. Questo è scritto in Seconda Re 24:3. Allo stesso modo utilizzò i persiani per giudicare Babilonia e utilizzò Ciro per realizzare la profezia che era stata fatta attraverso Geremia. Di questi eventi è scritto anche nel libro di Daniele, il quale conosceva le profezie di Geremia e si aspettava che Dio intervenisse da un momento all'altro. Di Ciro era già stato scritto nel libro di Isaia e Dio aveva designato Ciro come suo unto, è scritto in Isaia 45:1, per sottolineare che si trattava di un uomo scelto da Dio e preparato per un compito specifico. Cosa spinse Ciro, un re pagano, a pubblicare quell'editto? È scritto: il Signore suscitò il suo spirito. Si noti che ciò non significa che Ciro si sia convertito al Dio di Israele. Infatti dal testo si comprende che Ciro aveva un'idea molto locale del Dio di Israele che lui relegava a Gerusalemme. Questo è in accordo con quanto testimoniato nel cilindro di Ciro, che documenta la presa di Babilonia e il suo piano per il rimpatrio dei popoli a lui assoggettati, che contiene la seguente dichiarazione: possano tutti gli dèi che io ho ristabilito nelle loro sante città chiedere per me ogni giorno a Bel e Nebo lunga vita. Ciro era quindi convinto di poter ottenere dei vantaggi nel permettere agli israeliti di tornare a Gerusalemme per ricostruire il Tempio. Tuttavia fu uno strumento utilizzato per realizzare i piani di Dio. Pensando a Ciro, che è stato il mezzo che Dio ha usato per far tornare il suo popolo a Gerusalemme, mi viene in mente ciò a cui stiamo assistendo negli ultimi decenni in Israele. Ci sono molti interessi politici, economici, religiosi, che possono spingere le nazioni o singoli individui a prendere posizione nei confronti dello Stato di Israele. Ci sono le opinioni più varie in proposito. Ci sono non cristiani che difendono Israele, così come ci sono cristiani che ritengono illegittimo lo Stato di Israele. Ognuno esprime il proprio parere, influenzato dalla propria ideologia, dalle proprie convinzioni teologiche, dalle proprie idee politiche. Ma un fatto è sicuro: lo Stato di Israele oggi esiste e molti ebrei stanno ritornando nella loro patria in armonia con molte profezie bibliche riferite agli ultimi tempi. Anche se sembra che tutto accada per caso, il grande regista sta guidando la storia e conducendola verso il suo grande epilogo. Gli uomini sono malvagi, fanno le loro guerre e portano avanti i propri progetti politici perseguendo i propri interessi e pensando di avere tutto sotto controllo. Ma alla fine ciò che Dio ha stabilito si realizzerà, che gli uomini lo vogliano oppure no, che ne siano consapevoli oppure no.